Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. A volte vengono fuori delle idee piccole che però riescono a interpretare un bisogno preciso che abbiamo nella nostra quotidianità. E ci sono idee semplici di quelle che una volta che te le hanno raccontate ti viene da dire «ma perché non ci ho pensato io?». Quando poi un'idea ha tutti e due questi ingredienti è veramente probabile che venga fuori qualcosa di smart. A New York, per esempio, un progetto nato all'interno della Commissione Smart City del Comune è partito da una semplice constatazione. Sedersi in quella città è davvero difficile. Hanno lanciato una divertente call per immagini di gente che è seduta sui supporti più improbabili, per esempio quelle colonnine rosse tipiche delle strade americane alle quali si collegano i pompieri in caso di incendio. Sono anche coniche, diciamo così, ecco, nella parte finale, quindi non particolarmente comode. E adesso, insomma, è partita un'installazione di panchine. E allora sentite che cosa ci racconta Federico Pedrocchi a proposito di un altro problema che affligge parecchia gente, tra cui il sottoscritto, e per il quale è venuta fuori questa soluzione semplice e molto contemporanea. Ascoltiamo. Sono qui con Gabriel Locchino, benvenuto, della società Welco. Welco, basata a Milano. Sta ricevendo una telefonata e ascoltiamo la telefonata. Chi è? Sì, guardi, non, in questo momento non sono a casa. Sì, guardi, se le apro il cancello può lasciare il pacco. Sì, davanti al portoncino, sì, aspetti un attimo. Scusate, ma... Prego. Sì, si è aperto? Bene, grazie mille, arrivederci, arrivederci. Questo avrebbe potuto davvero accadere, noi ovviamente non saremmo proseguiti. Lei ha parlato virtualmente con qualcuno, per esempio un pony expert che ha suonato il citofono di casa sua, però lei non era in casa. Esattamente. Welco è un dispositivo che permette di ricevere sul proprio smartphone la chiamata citofonica. Quindi in questo caso abbiamo simulato il fatto che ci fosse un qualcuno che chiamasse, che suonasse a casa e il mio telefono ricevesse la chiamata. In questo caso io ho risposto e ho potuto addirittura aprire il cancello di casa. Quindi tutte le case senza portineria. Esatto, tutte le villette singole, tutti anche i condomini. Ma si sostituisce la parte esterna dei citofoni, quindi pensando anche a grandi condomini, quelle due o tre ghiere con parecchi tasti, oppure è dentro che cambia qualcosa? No, cambia qualcosa dentro. La parte che viene cambiata è la parte terminale dell'impianto citofonico, quindi si stacca la cornetta interna, la classica cornetta bianca che si alza per rispondere, viene cambiata quella, quindi non c'è bisogno di intervenire assolutamente sull'impianto preesistente. È la cornetta interna che chiama il cellulare. Esatto, il nostro dispositivo che si sostituisce la cornetta, poi inoltre la chiamata allo smartphone associato o agli smartphone associati. Sto pensando anche al fatto che nelle aree metropolitane, ma ormai in un paese come il nostro, insomma, di quelli industrializzati sono tutte aree metropolitane, mi pare che le statistiche dicono che i single sono tra il 37 e il 40%, quindi il fatto che non ci sia in casa nessuno è diffusissimo. In termini di installazione lunga? No, in realtà il progetto prevede un'installazione fai da te, quindi il cliente lo compra online, riceve il pacco, stacca il vecchio citofono in modo semplice con un semplice cacciavite, attacca i fili elettrici alla nostra piattaforma e il sistema è pronto. Ovviamente prevederemo, per chi lo chiederà, una soluzione che prevede un installatore, però non è la cosa principale, diciamo. Quindi è più che altro fai da te. Con i costi ci si sta dentro? Sì, sì, i costi sono nettamente inferiori a quello che è l'installazione di un impianto citofonico. Molti non sanno quanto può venire a costare un impianto citofonico perché di solito ce l'hanno con l'acquisto della casa. Quindi parliamo di cifre che si girano intorno al migliaio di euro. Noi siamo nettamente ad un prezzo nettamente inferiore. Un'ultima cosa, la vostra società, che è giovane, comincia già a muoversi sul mercato, però voi state cercando qualcheduno che possa investire per avere più benzina. Esatto, noi in questo momento abbiamo già avuto contatti con alcuni potenziali clienti, alcuni potenziali partner, ma ovviamente da startup ci serve, come diceva lei, un po' di benzina per poter andare avanti e arrivare a fine anno con qualcosa di molto concreto. Grazie e auguri. Grazie a lei. Allora grazie a Federico Pedrocchi, grazie a Gabriele Occhino per questo insomma piccolo uovo di Colombo. Noi ci sentiamo domani.